colori e suoni sfiorano corde d'infinito, affetti e dolori strofinano il tempo finito, strappare via lacrime incancellabili dal dentro, mentre tutto intorno rime, sfiorano il dolore di un nuovo centro, corde e suoni strofinano il corde d'infinito, affetti e dolori strofinano il tempo finito, strappare via lacrime incancellabili dal dentro, mentre tutto intorno rime, modellano il dolore di un nuovo centro, di un nuovo centro, di un nuovo centro. Cammino solo per le periferie della mia città invisibile, labile il confine del sole, dire l'indicibile sembra inevitabile, corrono idee di un nuovo sole, a cercare parole inviolabili, nuove certezze calpestabili, rimane lento solo il profumo del tempo, nel fumo di un'altra sigaretta che nasconde l'impossibile vetta, di ogni mio orgoglio sfuma così il bisogno, dentro un nuovo sbadiglio, mentre il leone si sta addormentando e... Colori e suoni strofinano, corde di infinito, affetti e dolori strofinano, il tempo finito, strappare via lacrime incancellabili dal dentro, mentre tutto intorno rime, modellano il dolore di nuovo centro. Colori e suoni strofinano, corde di infinito, affetti e dolori strofinano, il tempo finito, strappare via lacrime incancellabili dal dentro, mentre tutto intorno rime, modellano il dolore di un nuovo centro. Modellano il dolore di un nuovo centro. Di un nuovo centro. Ricordi, altri anni duri che correvano più lenti, bui come segrete castelli, venti, regali troppo spenti, coltelli, tra i denti indicibili, sopportabili catene, solo con affetti palpabili che ritornano visibili, solo assopendo gli effetti del dolore, rimangono ore lente a sopportare il colore nero di solitudine, poi torno a scendere le scale e il passo libero oltre la porta riappare e la libertà sembra tornare dentro una sorta d'ali. Mi sembra baciare, simile a... Colori e suoni sfiorano corde di infinito, affetti e dolori strofinano il tempo finito, strappare una lacrima incancellabile dal dentro, mentre tutto intorno rime, modellano il dolore di un nuovo centro. Colori e suoni sfiorano corde di infinito, affetti e dolori strofinano il tempo finito, strappare via una lacrima incancellabile dal dentro, mentre tutto intorno rime, modellano il dolore di un nuovo centro. Di un nuovo centro. Di un nuovo centro. Di un nuovo centro. Corro, ruggisco in pace, mangio il tempo di pece, rimango assuefatto d'affetto, stretto, fuggo dall'oppio necessario, diretto verso il giorno perfetto, il rosario di preghiere detto, si rompe mille brandelli, versi che rimangono nel vento, fardelli troppo scomodi da esaudire, mi vesto di magia dentro, portando solo poesia tra le mie mani. Centro inviolabile del sublime, parole come cani fedeli di rime, sembrano dire, sembrano dire, sembrano dire, sembrano dire. Colori e suoni strofinano corde di infinito, affetti e dolori strofinano il tempo finito, strappare via lacrime incancellabili dal dentro, mentre tutto intorno rime, modellano il dolore di un nuovo centro. Colori e suoni strofinano corde di infinito, affetti e dolori strofinano il tempo finito, strappare via lacrime incancellabili dal dentro, mentre tutto intorno modellano il dolore di un nuovo centro. Corro, ruggisco in pace, mangio il tempo di pece, rimango assuefatto d'affetto, stretto, fugo dall'oppio necessario, diretto verso il giorno perfetto, rosario di mille preghiere detto, si rompe mille brandelli, versi che rimangono nel vento, fardelli troppo scomodi da esaudire, mi vesto di magia dentro, portando solo poesia tra le mie mani, centro inviolabile del sublime, parole come cani fedeli di rime, sembrano dire centro.